Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È un 2017 che si annuncia a dir poco effervescente per la politica estera. Tante sfide sono innanzi a noi e l'Italia può giocare questo 2017 da protagonista, perché abbiamo i trattati di Roma, il 60° anniversario, la presidenza del G7 e abbiamo il seggio al Consiglio di sicurezza dell'ONU. E sarà un 2017 effervescente per la politica estera, dice Alfano, può dirlo forte, non solo per quello che riguarda le sfide in cui l'Italia sarà direttamente protagonista, come lui ha elencato, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ma bisogna chiedersi piuttosto quanta effervescenza porterà nella politica estera, nelle relazioni internazionali, Donald Trump, che si insedia tra 4 giorni praticamente come presidente degli Stati Uniti e sapete che da tempo già lancia provocazioni nei confronti della Cina, questo rapporto quantomeno ambiguo con la Russia. E poi oggi in questa intervista sia al Times che alla Bild tedesca ha detto che la NATO ormai è obsoleta, che va rivista, che gli alleati devono pagare di più, che l'Unione Europea è praticamente moribonda e che anche gli europei dovranno avere delle limitazioni per entrare negli Stati Uniti. Insomma, ha fatto veramente l'otto volante con tutte queste dichiarazioni. Cercheremo poi di capire effettivamente, insomma, se tutta questa effervescenza avrà poi delle effettive conseguenze. E poi purtroppo ancora una volta ci siamo lasciati venerdì, avevamo fatto l'elenco dei femminicidi, tentativi di femminicidi dall'inizio del 2017, ce ne sono già altri due, quindi ancora su questo argomento ci soffermeremo purtroppo per capire che cosa hanno nella testa questi uomini e soprattutto come si può combattere insieme questa battaglia di civiltà. Per i vostri interventi, le vostre osservazioni, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, alla quale potete aderire senza indugio, oppure il numero per messaggi WhatsApp che è 349-238-6666, 349-238-6666. Come sempre, prima di approfondire i temi, vi racconto in sintesi la giornata. Conti pubblici, Bruxelles chiede all'Italia una correzione da oltre 3 miliardi, il Fondo monetario taglia le stime di crescita. Emissioni diesel, la Germania chiede il ritiro di Fiat 500, Jeep Renegade e Doblò, la Commissione europea vuole chiarimenti. Trump contro Europa e NATO, il patto atlantico è obsoleto, dice, gli alleati devono pagare di più. Inoltre l'Unione europea è solo un veicolo per gli obiettivi della Germania. Replica della cancelliera Merkel, noi europei siamo padroni del nostro destino. Messico, sparatoria a Playa del Carmen, forse un regolamento di conti. Tra le 5 vittime c'è un italiano di origini milanesi che lavorava lì. La violenza maschile senza fine contro le donne. L'uomo che ha ucciso la moglie a Milano è andato poi a comprare pasticcini e a giocare alle slot machine con l'intento di crearsi un alibi. L'appello del questore di Milano, denunciate di più le violenze. E nel casertano un ex guardia giurata uccide la moglie che lo voleva lasciare e poi si suicida. Maltempo, neve e gelo flagellano il centro-sud, migliaia senza elettricità in Abruzzo, scuole chiuse, disagi anche su strade e autostrade. La classifica del Sole 24 Ore dei sindaci più amati, agli antipodi le due sindache a 5 stelle, Chiara Appendino al top, Virginia Raggi al penultimo posto. E per il calcio in campo Torino-Milan, posticipo della prima di ritorno di Serie A. Partiamo quindi dal sollecito, diciamo così, della Commissione europea nei confronti dell'Italia sui conti pubblici, in attesa di conoscere i contenuti della lettera indirizzata dalla Commissione al Governo, trattativa in corso con il Ministero delle Finanze mentre il Fondo monetario taglia le previsioni di crescita per il Paese. Una richiesta che non arriva a sorpresa, quella di Bruxelles. Già le previsioni d'autunno della Commissione europea sul nostro paese, pubblicate a novembre, indicavano un bilancio 2017 lontano dagli obiettivi prefissati. L'attesa del voto referendario del 4 dicembre aveva poi congelato la situazione. Ora il pressing del commissario agli affari economici Moscovici perché entro il 1 febbraio Palazzo Chigi spieghi le cause dello scostamento nei conti e soprattutto metta in campo una correzione da 3,4 miliardi pari a 2 decimali. In caso contrario scatterebbe per il nostro paese l'apertura di una procedura per deficit eccessivo con possibili interventi restrittivi sul bilancio che comprometterebbero la crescita. È quello che vogliamo evitare, fa capire il vice ministro all'economia Morando. Per questo spiega siamo disponibili a mettere in atto le misure necessarie. Quanto all'eventuale manovra non sarebbe correttiva, aggiunge Morando, ma si tratterebbe di misure di aggiustamento. In tema di crescita intanto il Fondo Monetario Internazionale lima le stime per il il nostro paese, più 0,7 quest'anno, più 0,8% il prossimo, una revisione al ribasso rispettivamente di 2 e 3 decimali. Le riforme strutturali restano una priorità ovunque, si legge poi nel rapporto. In Italia Renzi ha fatto riforme molto importanti e positive, spiegano da Washington, ma molto resta da fare, soprattutto sulle banche. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Altro richiamo che arriva da Bruxelles è quello sulle emissioni di alcuni modelli diesel di Fiat Chrysler. Ormai è scontro tra Berlino e Roma. La polemica italo-tedesca sul Dieselgate affossa il titolo Fiat Chrysler in borsa. Dopo la richiesta avanzata domenica dal ministro tedesco dei trasporti Dobrindt, che ha chiesto all'Unione Europea di richiamare 3 modelli del gruppo FCA per quelle che i tedeschi definiscono violazioni della normativa sulle emissioni inquinanti, il suo omologo italiano Graziano Del Rio ha ribattuto che sulle vetture FCA non ci sono dispositivi illegali dimostrati e ha ribadito che le autorità di ciascun paese sono responsabili delle verifiche sui veicoli omologati in esso. Anche la Commissione di Bruxelles, che svolge un ruolo di mediazione fra i due paesi, ha cercato di aumentare la pressione su FCA dicendo che Roma deve dare risposte convincenti il più presto possibile e ventilando l'avvio di una procedura di infrazione. Londra ha intanto detto di aver avviato a sua volta test sulle Jeep Grand Cherokee oggetto dell'inchiesta dell'EPA, l'ente americano per la protezione dell'ambiente. A questo proposito i sindacati sono preoccupati. I motori diesel oggetto di quest'ultima indagine sono il prodotto principale della fabbrica VM Motori di Cento. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo di Trump contro Europa e NATO. In un'intervista al Times e alla Bild, a 4 giorni dal suo insediamento, il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump attacca la NATO e l'Unione Europea, dice: il patto atlantico è obsoleto e gli alleati devono pagare di più. Inoltre l'Unione Europea è solo un veicolo per gli obiettivi della Germania. Subito è arrivata la replica della cancelliera Merkel, che ha detto: noi europei siamo padroni del nostro destino. Ma Trump non ha risparmiato attacchi anche al capo della CIA, dicendo: non avrebbe potuto fare di peggio, e avanza un dubbio: è forse lui l'autore della fuga di notizie false su di me? Insomma, un Trump che fa scintille e del quale torneremo poi a parlare tra poco, anche per capire che piega effettivamente potrebbero prendere con lui i rapporti tra Stati Uniti e Europa, visto che ha anche detto che va limitato l'ingresso negli Stati Uniti anche per quanto riguarda gli europei. Restiamo all'estero, in Messico c'è stata una sparatoria in un club a Playa del Carmen, 5 morti tra cui un italiano. No, non è un attacco terrorista, sin embargo. L'unica certezza degli inquirenti messicani è che non si è trattato di un attentato terroristico. Per il resto il riserbo è massimo, spiegano, per evitare fughe di notizie. Quel che purtroppo è noto è che nella sparatoria avvenuta a Playa del Carmen ci sono state 5 vittime, tra cui un cittadino italiano, Daniel Pessina, originario del Milanese, che da tempo viveva in Messico. Secondo la ricostruzione della procura, che ha fermato 3 persone, un uomo armato è entrato all'alba nella nota discoteca Blue Parrot, dove era in corso un festival di musica elettronica. Qui ha cominciato a sparare, uccidendo il nostro connazionale e altre 3 persone, 2 canadesi e un colombiano, pare addetti alla sicurezza del locale. Una donna sarebbe morta invece nella ressa causata dalla gente in fuga. I feriti sarebbero 9. Ancora da chiarire il movente, ma la causa più plausibile, anche se manca ogni ufficialità, è da scriversi ad una resa di conti tra bande criminali. Playa del Carmen, così come la penisola dello Yucatan in cui si trova, è un paradiso turistico internazionale. Finora era stata esclusa dall'ondata di violenza criminale catenata dei cartelli messicani di narcotrafficanti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso lo Yemen. Negli ultimi 2 anni di guerra, nello Yemen il numero di civili morti in 2 anni ha passato, secondo una stima ottimistica, il numero di 10.000. Lo fa sapere l'ONU, che quantifica i feriti poi in circa 40.000. La stima sui civili morti è basata sulla conta delle vittime raccolte dalle strutture sanitarie del disastrato paese, e la cifra reale quindi potrebbe essere anche molto più elevata di questi 10.000. Adesso di nuovo sulle notizie italiane. Luxottica, Essilor, maxi fusione da 50 miliardi che dà vita a un gigante globale dell'occhialeria. Un sogno da 50 anni, dice il patron di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. La borsa festeggia, Luxottica guadagna in chiusura oltre l'8% ed Essilor l'11,85%. Luxottica, gioiello italiano degli occhiali di lusso, convola a nozze con la francese Essilor, la società che nel 59 ha creato le prime lenti progressive. Nasce così un gigante dell'occhialeria da 15 miliardi di fatturato, più di 140.000 dipendenti, una capitalizzazione di quasi 50 miliardi e vendite in oltre 150 paesi. Essilor Luxottica sarà il leader mondiale, che crescerà al ritmo annuo del 2,5% e sarà una holding quotata a Parigi. Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica, sarà il primo azionista. Delfin, la holding di famiglia, controllerà infatti tra il 31 e il 38% della società. L'operazione è frutto di anni di studio e ora il closing è previsto per il secondo semestre dell'anno. Il nuovo gigante globale produrrà in casa lenti e montature. «Ho realizzato un sogno dopo 50 anni», dice Leonardo Del Vecchio. «Continueremo a investire in Italia e Francia perché vogliamo essere un campione europeo». L'avventura Luxottica è nata nel 58 ad Agordo, in provincia di Belluno, dove Del Vecchio partì con una bottega di montature per occhiali. Oggi è una multinazionale che produce per Ray-Ban, Persol, Armani, Prada, solo per citare alcuni marchi del lusso. E a 82 anni Del Vecchio, secondo Forbes, è il secondo uomo più ricco d'Italia e il 37esimo nel mondo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per la cronaca siamo di nuovo sulla scia infinita dei femminicidi. Luigi Messina, l'uomo che ha confessato l'omicidio della moglie trovata morta ieri in casa a Milano, ha trascorso le 3 ore successive all'omicidio, prima di chiamare il 118, facendo la spesa, comprando pasticcini e giocando alle slot machine con l'intento di crearsi un alibi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo ha anche nascosto il coltello utilizzato per il delitto e i propri vestiti sporchi di sangue. Messina è crollato durante l'interrogatorio dicendo che la moglie lo martellava per i suoi tradimenti. Il questore di Milano intanto lancia un appello alle donne e dice: serve più cultura della denuncia. E nel Casertano un uomo, ex guardia giurata, come il killer di Milano, descritto come ossessivamente possessivo, ha ucciso la moglie che lo voleva lasciare e si è poi suicidato. E tra poco torneremo a parlare di questa inarrestabile mattanza. Già sono diversi casi dall'inizio del 2017, siamo solo al 16 gennaio. Vandali al Colosseo, sui pilastri dell'anfiteatro hanno scritto con lo spray morte. Il ministro della cultura Franceschini ha commentato: il gesto vandalico di oggi al Colosseo è un autentico sfregio, un monumento simbolo del patrimonio culturale mondiale. Sono necessarie, insieme alla prevenzione, pene più severe per i vandali, così come previsto dal disegno di legge delega approvato il 22 dicembre dal governo. E poi c'è da parlare anche del maltempo. Neve e freddo continuano a colpire il centro-sud. In Abruzzo centinaia di famiglie senza energia elettrica. Sotto il peso della neve un cavo è caduto sulla A4, chiuso il traffico tra Pescara Nord e Lanciano. Dalla Campania alla Sardegna, ma anche in Basilicata, Puglia, Sicilia e Marche, trasporti pubblici in crisi e scuole chiuse per freddo e neve. La situazione più critica in Abruzzo, come conferma anche l'assessore alla protezione civile Mario Mazzocca. Le precipitazioni che per intensità ci stanno portando diverse criticità, soprattutto sulla viabilità. Ci sono i codici rossi su tutte i tratti autostradali. Nella regione intanto salgono a 200.000 le persone senza energia elettrica a causa delle quasi 90.000 utenze disattivate. Per la neve, dopo 30 anni, a San Giorgio La Molara, comune di 3.000 abitanti nel Beneventano, è nato alla guardia medica un bimbo dopo una corsa in ambulanza, scortata dal camion dei vigili del fuoco che ha fatto da apripista sulla strada. Infine hanno funzionato gli appelli a donare il sangue, dopo le carenze registrate la settimana scorsa, che almeno per il momento sono rientrate in quasi tutte le regioni. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo adesso anche di disuguaglianze, perché crescono nel mondo. Bastano, pensate, i primi 8 più ricchi del pianeta, le prime persone, i primi 8 uomini più ricchi del pianeta, per fare la ricchezza di 3,6 miliardi di più poveri. E quanto calcola il rapporto Oxfam, che è l'organizzazione non governativa britannica, presentato in occasione del World Economic Forum. E poi c'è la classifica dei sindaci più graditi, più amati, messa a punto dalla società IPR per Il Sole 24 Ore. Agli antipodi proprio le due sindache a 5 stelle, Appendino, sindaca di Torino, al top, Virginia Raggi, sindaca di Roma, al penultimo posto. Al secondo posto c'è il sindaco PD di Firenze, Dario Nardella, al terzo posto Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, uscito polemicamente dal Movimento 5 Stelle. All'ultimo posto, peggio della sindaca Raggi, c'è solo Maria Rita Rossa alla guida di Alessandria. E direi, ma facciamo anche una classifica di animali, perché 4 italiani su 10, il 43,3%, ospitano nella propria casa un animale. Sono molti italiani con animali a casa, con una netta prevalenza di cani, 60,8%, gatti, 49,3%, ci sono anche pesci, tartarughe, uccelli, fino agli animali esotici. Il tutto, e questo poi che interessa anche molto, per una spesa superiore ai 2 miliardi solamente per l'alimentazione, quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sulla base di dati Eurispes in occasione proprio di Sant'Antonio Abate, il patrono degli animali, che si festeggia il 17 gennaio. Per chiudere però c'è il nostro Giovanni Capuano per il calcio. Vedo il Torino ha fatto 2 gol finora sul Milan, dico bene? Sì, Ha fatto due gol in 5 minuti, ha fatto due gol in 5 minuti tra il 21esimo e il 26esimo e sta conducendo direi anche meritatamente sul Milan in questa che è l'ultima partita della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Hanno segnato Belotti al 21esimo, un tocco ravvicinato su una conclusione di Ljajic con la difesa del Milan abbastanza disattenta, ha chiesto il fuorigioco, fuorigioco però che non c'era per Belotti, il 14esimo gol in questo campionato, soltanto l'interista Icardi ne ha fatti di più. E poi al 26esimo c'è stato il raddoppio di Benassi, un'azione prolungata sempre del Torino all'interno dell'area di rigore del Milan, i difensori non sono riusciti ad allontanare il pallone e poi Benassi con un tocco di tacco sotto misura ha beffato Donnarumma per il gol del 2-0. Dicevo, vantaggio assolutamente meritato quello del Toro, che anche nei primi 20 minuti si era reso pericoloso in un paio di occasioni con la difesa del Milan particolarmente svagata, Milan che fin qui non si è ancora visto dalle parti del portiere inglese Hart, quindi insomma questo è il disegno della partita. È una gara che ai rossoneri serve per tenere dietro l'Inter che è in rapida rimonta in classifica e per provare a rimanere agganciati alla zona Champions League, qualcosa che in questo momento a Montella decisamente non sta riuscendo. 31esimo minuto, 2-0 per il Toro, a te la linea. Grazie Giovanni Capuano, poi ci aggiorniamo dopo, per ora appunto il risultato è 2-0, avete sentito, per il Torino sul Milan. Tra poco cominceremo a tornare ad approfondire gli argomenti, come sempre dopo la viabilità che sentirete tra poco. Per le vostre osservazioni, domande, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Alcune ascoltatrici e ascoltatori stanno scrivendo messaggi appunto sui femminicidi, in particolare Cristiano dice: nella testa di questi uomini c'è quanto di più fragile, stolto, interiormente mediocre può abitare una vita. 3 ore tranquille su una slot machine dopo un simile massacro, a proposito dell'ultimo femminicidio a Milano, dice, sono l'evidenza di un bipede totalmente perduto, consegnato a un tale buio di sé, forse senza rimedio e forse anche senza pietà. Poi Gianni dice, c'è tanta soltanto cacca nella testa di questi uomini, cos'altro si potrebbe essere nella testa di esseri di questa natura? Poi molti altri messaggi, Raffaele dice, non uomini ma assassini, vigliacchi, malati di mente, maschilisti. Molti, devo dire, messaggi anche di uomini. Continuate, ci sentiamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci subito insieme, sempre Roberta Giordano con voi, lo sapete, tutte le sere dalle 21 alle 22 per avere il quadro completo della giornata, delle notizie almeno più importanti dall'Italia e dall'estero e poi gli approfondimenti con gli ospiti su alcuni temi specifici. Stasera tra pochissimo cercheremo di riflettere su queste dichiarazioni in due interviste di Donald Trump, che tra 4 giorni diventa ufficialmente Presidente degli Stati Uniti, riguardo la NATO e l'Unione Europea. Già qualcuno è polemico su questo e dice... l'Europa al servizio della Germania e qual è la novità, scrive Giovanni al 349-238-6666. Poi molti messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte rispetto ai femminicidi, di cui parleremo più tardi. Mentre Simone dice, le dichiarazioni di Alfano sull'effervescenza della politica mi ricordano solo che oggi è il giorno più triste dell'anno, dice Simone. Effettivamente non ricordo, ma oggi effettivamente è il Blue Monday, cioè dovrebbe essere il giorno più triste dell'anno. Adesso mi devo anche ricordare perché ogni anno viene celebrato, di solito mi pare che fosse un lunedì sul 17, oggi è 16, si vede che hanno anticipato, insomma, intorno a questa data comunque. Però noi invece teniamoci su perché le notizie sono molte, concentrazione, attenzione e vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21, almeno i titoli più importanti. Pressing di Bruxelles sui conti pubblici italiani, correggeteli o sarà un'infrazione. Padoan, il ministro dell'economia, dice vedremo se serviranno altre misure, mentre il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime sul nostro PIL, prodotto interno lordo. Battaglia intanto tra Roma e Berlino su Fiat Chrysler, l'Unione Europea dice risposte al più presto, i tedeschi chiedono per Fiat Chrysler il ritiro delle 500, del Doblò e delle Jeep Renegade, e Del Rio invece, il ministro Del Rio, dice ci devono rispettare. Poi il ciclone Trump contro Europa e NATO, scintille anche con la CIA. Mosca dice ha ragione Trump e la cancelliera Merkel tedesca dice noi siamo in realtà padroni del nostro destino. Strage in una discoteca in Messico, a Playa del Carmen, è morto anche un italiano tra le vittime. Le vittime sono 4 morti, 9 feriti, ma dicono le autorità locali non è terrorismo. Luxottica, nozze con Essilor, nasce un gruppo da 50 miliardi degli occhiali. E poi lo avete sentito, appunto, ne parleremo tra poco, ancora 2 femminicidi, molti ancora già dall'inizio dell'anno, gli ultimi uno a Milano e l'altro a Santa Maria Capua Vetere nel Casertano. E poi per la classifica dei sindaci più amati d'Italia, questa classifica del Sole 24 Ore, secondo cui al primo posto c'è Chiara Appendino dei 5 Stelle, sindaca di Torino, al penultimo posto la sindaca Raggi di Roma e poi all'ultimo proprio la sindaca di Alessandria. E poi la partita che c'è in corso, il posticipo di Serie A, Torino-Milan, conduce ancora 2-0 il Torino. Sentivate all'inizio quindi il ministro degli esteri Alfano, no? Che diceva che questo 2017 sarà effervescente per la politica estera. Io ho fatto questa battuta nel senso che in realtà la vera effervescenza probabilmente, a parte le sfide in cui l'Italia è direttamente protagonista, la porterà molto probabilmente Donald Trump nella politica estera, nelle relazioni internazionali, perché avete sentito le dichiarazioni che ha fatto, abbiamo sentito all'inizio nella ricostruzione della giornata, a parte appunto proseguono le provocazioni nei confronti della Cina, comunque le tensioni con la Cina, i rapporti insomma non molto chiari, sicuramente ambigui con la Russia, perché per tanto tempo aveva negato che avesse avuto interferenze la Russia, gli hacker russi nella campagna elettorale per le presidenziali. Poi verso la fine della scorsa settimana, giovedì o venerdì, aveva detto no, in realtà sì, riconosciamo che la Russia è intervenuta con l'hackeraggio e ha condizionato la campagna elettorale, e poi di nuovo ha negato. Insomma, non è ancora chiaro che posizione abbia nei confronti di questo argomento e della Russia in particolare. Poi dichiarazioni adesso nelle interviste che ha fatto al Time e alla Bild tedesca sulla NATO che è obsoleta, l'Unione Europea che è moribonda e molto assertiva nei confronti della Germania, cosa che ha fatto naturalmente indignare la cancelliera Merkel, che ha detto no, noi europei siamo padroni tutti del nostro destino. E poi anche per quanto riguarda gli europei ha detto ci vuole un tetto anche per gli europei, delle limitazioni se vogliono venire negli Stati Uniti. Allora, dove porterà i rapporti tra Stati Uniti e Europa e quindi anche le relazioni all'interno della NATO, lo chiedo a Vittorio Emanuele Parsi, esperto di geopolitica, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Vittorio Emanuele, buonasera. Buonasera e soprattutto intervista del Sole. Intervista del Sole, giusto, perché è editorialista del Sole, perché Vittorio Emanuele scrive un pezzo che troverete domani sul Sole 24 Ore. Fatto bene a ricordarmelo, Vittorio Emanuele. No, guarda, ci porterà al disastro. Ci porterà al disastro Trump? Io penso che Trump non abbia un disegno, e questa è una notizia cattiva, per così dire. Perché mi pare che quello che tiene insieme le sue dichiarazioni, i suoi punti di vista sulla Cina, piuttosto che sulla Russia, piuttosto che sulla Germania, sull'Europa tutta, sul Medio Oriente, è una crassa ignoranza esibita con estremo orgoglio. Questo è veramente il disastro. Sei lapidario, e allora probabilmente dai ragione, non so se l'hai vista l'anticipazione della copertina, no, del New Yorker, che promette una copertina con Trump, fatto vedere una breve anticipazione, Trump seduto su una macchinina giocattolo, dicendo, la metafora è che lui va così allo sbaraglio e per lui il fare presidente degli Stati Uniti è come un giro su un'automobilina, sì, cioè un divertimento, un gioco. Ma è una metafora tragicamente realistica, secondo me, nel senso che a Trump manca la dignitas, cioè non capisce che cosa sta facendo e che responsabilità sta assumendo. Nell'intervista rilasciata alla Bild, al Time, da cui sono state poi, diciamo così, campionate le dichiarazioni, ha detto delle cose che danno veramente l'impressione di qualcuno che non sta capendo che cosa sta facendo. E dico solo una: pensare che la solidità dell'Alleanza Atlantica, della NATO, quindi, si misuri sui contributi nazionali, che pure sono un aspetto importante, attenzione, è una querela che dura dal 52, quindi pochi anni dopo la fondazione della NATO, quella su quanto gli europei sono poco disposti a pagare per la sicurezza collettiva, è una sua dignità, ci mancherebbe altro. Come tratta lui la NATO è veramente impressionante, perché lui addirittura ha affermato: ma noi, la NATO non si occupa di terrorismo, quando i paesi europei alleati degli Stati Uniti hanno perso oltre 1000 soldati dall'11 settembre 2001 a oggi per combattere la guerra al terrore dopo l'11 settembre. Oltre 1000 soldati, che servono ben di più con qualche percentuale di punto di PIL in termini di spesa per la difesa comune. La forza dell'alleanza si vede sugli obiettivi condivisi, non su chi paga il conto alla fine della serata. Come la forza di un rapporto di amicizia o di amore non si vede su quale carta di credito viene usata, ma si vede su quanto le persone coinvolte hanno un obiettivo comune. Quello fa durare i matrimoni. Ora, Trump non ha grande esperienza di matrimoni duraturi, devo dire, però magari potrebbe informarsi anche sulla NATO, oltre che sui matrimoni, no? Senti, al di là dei matrimoni, Kerry, che è ancora per un po' segretario di Stato americano, dice contro Trump: è stato inopportuno sulla NATO, sull'Unione Europea, sulla Merkel, e queste sono interferenze nella politica di altri paesi che non gli appartengono, che non gli competono. Hollande, presidente francese, ha appena fatto una dichiarazione, dice: l'Unione Europea non ha bisogno dei consigli di Trump. Insomma, diciamo che adesso aspettiamo, il 20 gennaio si insedia ufficialmente, diventa presidente ufficialmente degli Stati Uniti, potrebbe forse essere almeno più cauto. Qualcuno invece inneggia qui vari messaggi: viva Trump, ha solo smascherato l'ipocrisia, sconfiggi gli ipocriti che ci avrebbero portato alla guerra mondiale, alla terza guerra mondiale. Ecco, io ricordo che durante la campagna elettorale molti detrattori di Hillary Clinton dicevano: lei è una guerrafondaia, e quindi è meglio Trump. E qualcuno dice: ci avrebbe portato alla terza guerra mondiale. Ma ci avrebbe portato Hillary Clinton o Trump? Con queste dichiarazioni rischia quantomeno di creare delle forti tensioni nelle relazioni internazionali. Io sono convinto che noi dobbiamo ringraziare la signora Clinton, la sua ambizione, la sua arroganza di voler essere a tutti i costi eletta presidente, quando sapeva che non aveva nessuna chance, perché perse con uno sconosciuto Obama 8 anni fa, la nomination democratica, se ci troviamo questo clown alla presidenza degli Stati Uniti. Ok? Quindi non ho nessun tipo di mito reverenziale verso la Clinton. Comunque, nel voto popolare lei ha vinto 2 milioni di voti in più, adesso, perché il voto negli Stati Uniti è un sistema un po' particolare. Hai ragione, Roberta, però è una sfida tra due candidati minori dal punto di vista delle capacità, per la campagna più costosa della storia delle campagne elettorali americane. Per cui, dopodiché, tutto ciò detto, mi pare che Trump, il vero problema di Trump sia l'ignoranza. Ed è molto più facile che noi si possa andare, non dico di fronte a un conflitto mondiale che, grazie a Dio, essere nell'epoca nucleare ci preserva o alza moltissimo il costo. Speriamo. Di questo. Però l'ignoranza è estremamente più pericolosa del progetto, diciamo così, anche guerrafondaio. Il punto è che la rete plaude tanto a Trump come applaude a tanti altri, perché si riconosce in Trump. Ma sia te che io, che siamo persone ragionevoli e minimamente, diciamo così, istruite, sanno benissimo che non vorremmo mai un presidente degli Stati Uniti con noi. Perché io non lo saprei fare, magari tu sì, ma io no. Quindi vorrei che il presidente fosse diverso da me, molto più competente. Invece questo, quando lo guardo, dico: oh mio Dio, ma è più incompetente degli studenti che io boccio agli esami. Ed è al pulsante delle bombe atomiche, capito? Questo è il dramma. Alessandra dice: viva Parsi, finalmente una voce senza peli sulla lingua, con Trump si va al disastro e siamo solo all'anteprima. Secondo te, poi leggo anche un altro messaggio contro, invece Lorenzo dice: continuate a pensarla in maniera vecchia, così siete fermi agli equilibri di Yalta come se fossero appena finita la seconda guerra mondiale, dimenticate anche che è il presidente degli Stati Uniti e non dell'Europa. E vabbè, infatti proprio per questo invece parla dell'Europa. Però, cioè, chi dice che noi siamo fermi a Yalta si dimentica che questo qua ha offeso i cinesi, ha insultato i cinesi, ha insultato gli europei. I suoi amici sono Putin e un governo in Israele più di destra che di destra non si può. Quali sono gli amici di Trump? Ma tutti gli altri li ha fatti innervosire, dico innervosire perché siamo alla radio. Ma questo qui sarebbe il progresso che avanza, questo sarebbe la lungimiranza, lo sguardo sul futuro. No, questo è un imbecille, scusate il termine, che ha vinto il terno all'otto di essere eletto perché le circostanze l'hanno portato alla presidenza, ed è un dramma. È un dramma per gli Stati Uniti e chi se ne frega, è un dramma per il mondo, ci interessa molto di più, ed è un dramma per la democrazia e l'idea di democrazia, perché questo alimenterà tutte le reazioni antidemocratiche che si possono immaginare, perché è stato eletto un signore del genere, che non sa neanche cosa si può dire e non dire una volta che sei presidente degli Stati Uniti. Questo è il dramma vero. Ma sai, spesso si apprezza anche chi semplicemente spara qualsiasi cosa perché dice quello che pensa, non è sempre un pregio, io credo. Comunque, sai, anche quello che dice, non credi? Certo, comunque bisogna anche pensare. Bisogna pensare prima di parlare. Vittorio Emanuele, adesso mancano appunto 4 giorni, abbiamo detto il 20 gennaio, diventa ufficialmente presidente degli Stati Uniti. Vediamo se rispetto ai pronostici di molti riuscirà ad ammorbidire, diciamo, le sue posizioni una volta presidente, oppure no, andrà avanti come queste dichiarazioni farebbero pensare. Ci resta da aspettare questi 4 giorni, insomma. Se chi crede nel sangue di San Gennaro che si scioglie, perché non crede che Trump possa modificarsi, però diciamo che da un punto di vista razionale non c'è nessun sintomo che fa pensare che si vada in quella direzione. Questo te lo dico al di là delle battute, con grande preoccupazione. Io non ho mai pensato che Clinton potesse vincere contro Trump. Penso che fosse il peggior candidato che gli si poteva opporre. Dopodiché questo però non fa di Trump il paladino delle cause perse. Trump resta un tycoon, un evasore fiscale, una persona veramente detestabile che ha colto la sua opportunità, che il suo interesse coincida con l'interesse degli Stati Uniti e soprattutto con l'interesse del mondo. Io ho fortissimi dubbi. Aspetto che quei bravi ragazzi dell'Economist facciano una copertina dedicata a lui, ben più rude di quella che fu dedicata a Berlusconi, che comunque in fondo a Trump era Bismarck. Grazie Vittorio Emanuele Parsi. Ciao. Grazie buonasera. A voi, arrivederci. Ciao. Oh, diciamo, su queste dichiarazioni, commenti lapidari di Vittorio Emanuele Parsi, vi lascerei brevemente per questa pausa. Intanto i vostri messaggi proseguono sulla pagina Facebook di Effetto Notte e altre 349-238-6666. Giovanni dice che offende gli elettori americani, insomma, ha detto come si fa effettivamente quando si ritiene che un candidato non sia stato quello ideale, si può dire come hanno fatto a votare. Questo non significa per forza offendere, poteva dire anche, ha detto anche che Hillary Clinton non era una candidata ideale. Mi sembra che siano dichiarazioni che si possano fare senza sentirsi offesi. Questo vedremo che cosa farà a partire dal suo mandato ufficiale tra 4 giorni Donald Trump. Poi Luca dice: sono in belle pacifista di fatto, perché ammazzare le donne basta starne a debita distanza. Vabbè, diciamo dello spirito su una cosa molto seria. Vedo invece altri messaggi molto seri e molti di uomini anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma ci sarà spazio tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, al momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Vedo diversi messaggi, più che sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dove state molto commentando questa scia infinita di femminicidi. Al 349-238-6666 molti messaggi invece che riguardano Trump, ne abbiamo appena parlato, delle sue dichiarazioni, queste interviste che ha fatto a Times e alla Bild e delle cose che ha detto nei confronti della NATO e dell'Unione Europea. Lidia dice: purtroppo Trump piace, la sua ignoranza oggi è condivisa da molti. Invece altri dicono: Parsi è di parte, Vittorio Emanuele Parsi, il docente che abbiamo appena sentito, ma chiaramente lui ha detto quello che pensava, nel senso che mi sembra legittimo che ognuno, se deve prendere posizione, prenda posizione. Poi invece Annalisa da Roma scrive: gli uomini hanno perso la loro identità, e ci riporta al tema di cui torneremo a parlare tra pochissimo. Intanto, se non avete acceso puntualmente le 21, vi ricordo quali sono i fatti principali. Conti pubblici: Bruxelles chiede all'Italia una correzione da oltre 3 miliardi, il Fondo monetario taglia le stime di crescita del nostro paese. Emissioni diesel: la Germania chiede il ritiro di Fiat 500, Jeep Renegade e Doblò, la Commissione europea vuole chiarimenti. Trump contro Europa e NATO: il patto atlantico è obsoleto, dice, gli alleati devono pagare di più, inoltre l'Unione europea è solo un veicolo per gli obiettivi della Germania. Replica della cancelliera Merkel, che dice: noi europei siamo padroni del nostro destino. Messico, sparatoria a Playa del Carmen, forse un regolamento di conti. Tra le 5 vittime c'è un italiano di origini milanesi che lavorava lì. La violenza maschile senza fine contro le donne, ne parleremo tra pochissimo. L'uomo che ha ucciso la moglie a Milano è andato poi a comprare pasticcini, a giocare alla slot machine con l'intento di crearsi un alibi. L'appello del questore dice: denunciate di più le violenze. Nel casertano un ex guardia giurata uccide la moglie che lo voleva lasciare, si suicida. Maltempo, neve e gelo flagellano il centro-sud, migliaia senza elettricità in Abruzzo, scuole chiuse, disagi anche su strade e autostrade. La classifica del Sole 24 Ore dei sindaci più apprezzati agli antipodi, le due sindache a 5 stelle, Chiara Appendino a Torino è al top e Virginia Raggi, sindaca di Roma, al penultimo posto. E per il calcio, per il posticipo di Serie A, Torino-Milan, sempre Torino in vantaggio per 2-0. Questo omicidio, usando il neologismo femminicidio, è la dimostrazione evidente che tutti si devono impegnare per sensibilizzare le donne che vivono rapporti malati all'interno del nucleo familiare o con ex magari compagni, di uscire fuori allo scoperto. Oggi la normativa esiste, una normativa ben strutturata, efficace, che permette alla donna di potersi affidare anche a centro antiviolenza ed essere accompagnata nel percorso decisionale. Questo è fondamentale. Questo che avete sentito è il questore di Milano, De Jesu, che dopo l'ennesimo femminicidio, ma poi ce n'è stato un altro, tanto per rimpolpare questo bollettino terribile che è ripreso nella sua scia infinita dagli anni scorsi, ma già dal 2017 sono passati solo 16 giorni e ci sono stati diversi tentativi di femminicidio e 3 riusciti. Ma adesso ci racconta tutto, questo vi dicevo, il questore di Milano che ha fatto questo appello dicendo alle donne per favore denunciate di più, anche se un'ascoltatrice adesso per esempio scrive sai perché continuano ad ammazzare le donne? Perché quando andiamo a parlare con la burocrazia per fare denuncia dei maltrattamenti fisici e psicologici non veniamo presi sul serio, non siamo credute, e poi va molto avanti con il messaggio. Insomma, tanti sono le persone, anche gli uomini, che stanno scrivendo. Annarita D'Ambrosio è qui con me. Ciao Annarita, la mia collega Annarita. Ci riassumi questo bollettino anche solo del 2017, perché dicevo sono 16 giorni, ma già sì, sono 16 giorni, ci sono stati 7 casi, 3 casi di ferimenti anche gravi e 3 donne uccise dal compagno. Poi c'è stato anche un tentativo in provincia di Mantova, a Pegognaga, un uomo che poi si è tolto la vita, ha tentato di strangolare la moglie durante un litigio. Quando la moglie si è allontanata con il telefono in mano, ha pensato chiamasse i carabinieri e si è suicidato. I casi sono tanti, c'è il caso dell'ex Miss Romagna, Jessica Notaro, 28 anni, sfregiata con l'acido dal suo ex compagno originario di Capoverde, che dal carcere però continua a negare ogni addebito. Questo è successo a Rimini, no? Sì, la ragazza rischia di perdere la vista. C'è il caso di Milano, Tiziana Pavani, 55 anni, quello precedente all'ultimo del quale abbiamo sentito la voce del questore. Tiziana Pavani era stata ritrovata morta a Milano nella sua abitazione. L'assassino è un suo compagno, un amico, Luca Raimondo Marcarelli, che l'ha uccisa con una bottiglia in un raptus causato dall'effetto della cocaina. Poi c'è la storia di Rosanna Belvisi, 50 anni, una lavoratrice dipendente dell'INPS, che di Milano, appunto, sempre, no? Di Milano, che è stata uccisa dal marito. E la cosa di questo episodio, quello di oggi, la confessione è arrivata all'alba di questa mattina, che fa ancora più rabbia, che nel 1995 l'uomo tentò già una volta di ucciderla accoltellandola alle spalle. Lei non aveva denunciato, ma sono stati 20 anni, lo dicevano anche oggi in conferenza stampa, 20 anni di violenze, 20 anni di soprusi, 20 anni di botte. Lei viene descritta come una persona dolcissima, una grandissima lavoratrice. Pensa che lei era molto contenta perché la figlia, che non c'era in questo momento perché era in Svizzera con il compagno, avrebbe dovuto sposarsi il 2 febbraio e quindi stava organizzando il matrimonio della figlia. Aveva scoperto da poco che il marito, perché poi questi uomini come definirli? Omuncoli, probabilmente. Sì, vabbè, questi esseri assurdi. L'aveva più volte tradita e lui addirittura si è giustificato dicendo vabbè, ma mi ha detto delle cattiverie terribili per i miei ripetuti tradimenti, come se poverino fosse, diciamo, una giustificazione ad un omicidio. E lui, da ultimo, si era scoperto, aveva un'altra famiglia, quindi un altro figlio di 3 anni, evidentemente. Insomma, lei era proprio al culmine della rabbia. Ha deciso di liquidare la faccenda ammazzando lei. Tra l'altro, questa cosa, questo femminicidio, Anna Rita, ricorda un altro, sempre di questi giorni, di questo 2017, di un uomo che ha tentato di sparare a Napoli, che ha ferito gravemente l'ex moglie, il nuovo compagno di lei, e che 26 anni fa aveva ucciso la prima moglie ed era stato in carcere alla fine 20 anni di condanna, ma meno di 10 anni si era fatto tra attenuanti varie e buona condotta, no? Sì, sì, questo è successo quasi dinanzi al Tribunale di Napoli, al centro direzionale, qualche giorno fa. E poi, come dicevi tu, sempre restando in Campania, c'è stata la vicenda di Santa Maria Capua Vetere, Franco Sorbo, tra l'altro anche lui ex guardia giurata, come Messina, Luigi Messina, che è quello che ha ucciso Rosanna Belvisi, che appunto, non sopportando di essere lasciato da Teresa Cotugno, stamattina l'ha uccisa e poi si è ucciso. Sono tanti, sono troppi casi, ma anche uno sarebbe troppo. Certo, Anna Rita, tra l'altro c'è anche il fenomeno dei figli che rimangono orfani di una madre uccisa dal padre e di un padre assassino, sì, no? Come la storia appunto della figlia che avrebbe dovuto sposarsi il 2 febbraio. Nancy Mensa, 22 anni, è uno dei 1628 figli rimasti senza madre né padre, perché la madre è stata uccisa dal padre, il padre o è in carcere o appunto si è anche a sua volta tolto la vita. Sono 1628. Nancy Mensa, siciliana, la mamma tra l'altro venne uccisa davanti al fratellino piccolo di 4 anni. Lei non era in casa in quel momento. Oggi è stata in Parlamento, ha incontrato Laura Boldrini, che sappiamo avere una sensibilità particolare verso questo, e le ha chiesto di intervenire per l'istituzione di un fondo che possa aiutare economicamente lei e quelli come lei, perché lei studia all'università, studia legge a Ferrara, ma chiaramente a fronte delle spese ed è rimasta completamente da sola con il fratellino piccolo. Nancy tra l'altro spiegava perché molto bene, ascoltiamo. Mia madre ha denunciato più volte mio padre, di conseguenza ha chiesto aiuto allo Stato, aiuto che non ha avuto nessun riscontro, e per questo io appunto ritengo lo Stato corresponsabile, e quindi io ritengo che lo Stato mi debba dare un aiuto economico, psicologico e un aiuto al mondo del lavoro. Ecco, appunto, lei dice la madre aveva denunciato 3 volte. Quando parliamo di denuncia, sì, bisogna denunciare, però poi spesso le risposte purtroppo non arrivano. E a questo proposito, grazie Anna Rita D'Ambrosio, interpello Manuela Ulivi, che è avvocata e presidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano. Buonasera, avvocata. Buonasera. Quindi ha sentito questo ennesimo bollettino, questo elenco, no? Sì, ho sentito purtroppo tutto quello che sta succedendo e anche le dichiarazioni, però c'è tanto da dire su questo. C'è tanto da dire, avvocata, a parte appunto delle donne che devono denunciare di più, di quello che ha detto il questore oggi di Milano, però è anche vero, come scriveva un'ascoltatrice, come scrivono molti altri, alla fine poi la protezione, oltre che la prevenzione, che non c'è molto, diciamo, anche la protezione effettiva c'è, perché queste sono parole giuste, quelle del questore, denunciate di più, ma poi dopo anche la protezione deve essere effettiva, perché sennò una denuncia è una cosa poi dopo molto giusta, quando fa riferimento ai centri antiviolenza che lui conosce bene, perché ha anche un'esperienza campana nella quale è intervenuto positivamente, e quindi quando dice che le donne vanno accompagnate e quindi vanno sostenute, fa riferimento ai centri antiviolenza, devo dire, dice una cosa giustissima. Rispetto alla questione della denuncia, sì, certo, è giusto denunciare, ma devono denunciare? Non lo so, nel senso che una donna deve fare quello che è importante per lei, innanzitutto allontanarsi dal pericolo, allontanarsi dal violento. Questo è il primo movimento necessario. Certo, poi è anche importante che gli organi dello Stato intervengano, ma la denuncia è solo un primissimo momento, poi c'è tutto un percorso molto difficile. Mi sembrava che lei prima leggesse di un'ascoltatrice che diceva: ma poi non vengono credute le donne e non vengono ascoltate fino in fondo. Noi abbiamo ancora sempre più rari, però ci sono degli episodi in cui le donne vengono rimandate a casa dicendo ma ci pensi bene, perché in fondo distrugge una famiglia. Quindi diciamo che c'è un humus culturale che non è ancora completamente formato su questi temi, anzi tende ad essere in qualche modo, mi spiace dirlo, ma complice, perché questi sono uomini normali, purtroppo, possiamo mettere anche le virgolette finché vogliamo, ma sono uomini che noi abbiamo di fianco tutti i giorni, rispetto ai quali dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo cercare di vedere. Quindi non dipingiamoli come mostri o come altro, sì certo sono mostruose le azioni che compiono, ma purtroppo sono uomini che abbiamo di fianco tutti i giorni, rispetto ai quali ci sono troppe complicità. Non si dice tutto fino in fondo, si dice ma in fondo appunto ci sono tanti giustificazionismi che non mi piacciono per niente. E poi dopo la denuncia ricordiamoci che le procure non hanno a volte sufficiente personale per poter fare tutte le indagini, a volte non le fanno anche per ragioni di pregiudizi, a volte non hanno sufficienti mezzi per farle, e quindi dove finiscono queste denunce? Di 1000 erotte denunce, magari 100, 200 vanno a dibattimento. Quindi la denuncia è un primo momento per far emergere il fenomeno, ma non è quello che porta la donna veramente fuori dal tunnel in cui si trova. Questo va tenuto in considerazione. Presidente Ulivi, poi ci sarà modo anche nei prossimi giorni di parlare anche dell'efficacia delle pene o meno, perché molti dicono insomma farsi meno di 10 anni per l'omicidio di una donna, insomma, e poi ritornare per ucciderne un'altra, ci pare davvero poco. Però purtroppo stasera, tra tempi vari, insomma, siamo un po' corti di spazio. Dottoressa Ulivi, ci risentiamo probabilmente, purtroppo per certi versi, nei prossimi giorni. Grazie intanto. Va bene, grazie a voi. Buonasera. Grazie. Adesso abbiamo la viabilità e poi torniamo insieme. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. Bentrovati gli ascoltatori di Radio 24, da Silvia Bernardi. Apriamo il dossier che contiene la proposta della Commissione europea per una nuova normativa fiscale a sostegno del commercio elettronico e delle imprese online nell'Unione europea. Questo pacchetto di misure consentirà ai consumatori e alle imprese, in particolare le start-up e le piccole e medie imprese italiane, di acquistare e vendere più facilmente beni e servizi online. Pierre Moscovici, commissario per gli affari economici e finanziari, ha dichiarato che con questo pacchetto i governi europei potranno incassare 100 milioni di euro in più alla settimana da spendere per servizi a vantaggio dei cittadini. Attualmente i commercianti online devono effettuare l'iscrizione IVA in tutti gli stati membri in cui vendono i loro prodotti. La nuova proposta prevede di adottare il sistema che esiste già per le vendite di servizi elettronici, come le applicazioni per smartphone, e si è dimostrato efficace per gli oltre 3 miliardi di euro di IVA incassati nel 2015. Verranno così ridotti di un consistente 95% gli oneri amministrativi a carico delle imprese, con un risparmio complessivo per le imprese dell'Unione Europea di 2,3 miliardi di euro e un aumento dell'entrata IVA per gli stati membri di 7 miliardi di euro. Ne parliamo con l'europarlamentare Alessia Mosca. Di che cosa si tratta in concreto? Si tratta di una normativa che tende a semplificare la vendita del commercio elettronico e di fatto serve per colmare un vuoto normativo adeguandosi allo sviluppo tecnologico ed è soprattutto indirizzata ad aiutare le piccole e le medie imprese. Questo ovviamente ci fa particolarmente piacere dato il contesto del nostro sistema economico. La nuova normativa fiscale riguarderà anche prodotti particolari come ebook e quotidiani elettronici, per esempio? Sì, certo, ci sarà una equiparazione tra i libri cartacei e i libri ebook. E nel concreto di che cosa stiamo parlando? Parliamo di una semplificazione dell'IVA, dell'imposizione dell'IVA, tale per cui le imprese non saranno obbligate a doversi registrare in ogni singolo Stato membro, ma si creerà anche un mercato unico digitale, nel vero senso della parola, cioè non sarà più necessario tutta la trafila burocratica per entrare in paesi diversi dal proprio, e questo ovviamente comporta una semplificazione burocratica da un lato e soprattutto un enorme risparmio economico. In più si aggiunge il fatto che le piccole e medie imprese che vendono al di sotto della soglia di 10.000 euro non saranno obbligate a fare proprio niente, perché potranno utilizzare la normativa che utilizzano normalmente nel loro paese. Da quando sarà operativa? Dovrebbe entrare in vigore nel corso dell'anno con l'applicazione di tutto il pacchetto del Digital Single Market. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Adesso ci riaggiorniamo brevemente alle 22.